Quell'anno, quando un po' prima del solito i miei ebbero fissata la data del ritorno a Parigi, il mattino della partenza, siccome mi avevano fatto arricciare i capelli in vista del fotografo, sistemato con cura sulla testa un cappello mai messo prima d'ora e fatto indossare un cappottino di velluto, la mamma, dopo avermi cercato dappertutto, mi trovò in lacrime sul breve e ripido sentiero nei pressi di Tansonville, nell'atto di dire addio ai biancospini, mentre abbracciavo i loro rami pungenti e, come una principessa da tragedia cui pesassero quei vani ornamenti, ingrato verso la mano importuna che, intrecciando tutti quei nodi, s'era data cura di raccogliermi i capelli sulla fronte, calpestavo i miei bigodini strappati e il cappello nuovo. La mamma non si commosse alle mie lacrime, ma non poté trattenere un grido alla vista del cappello sfondato e del cappotto rovinato. Io non la sentii nemmeno. «Oh, miei poveri piccoli biancospini», dicevo piangendo, «non siete certo voi che vorreste farmi del male costringendomi a partire? Voi non mi avete mai fatto soffrire, per questo vi amerò sempre». E asciugandomi le lacrime, giurai che da grande non avrei imitato la vita insensata degli altri uomini. E anche a Parigi, nei giorni di primavera, invece di andare in visita e ascoltare sciocchezze, sarei venuto in campagna a vedere i primi biancospini. Una volta nei campi, non li lasciavamo più per tutto il resto della passeggiata che facevamo dalla parte di Meseglise. Quei campi erano perennemente percorsi come da un girovago invisibile dal vento, che era per me il genio particolare di Combray. Tutti gli anni, il giorno del nostro arrivo, per avere la sensazione di essere davvero a Combray, salivo a ritrovarlo che correva tra i solchi e mi incitava a inseguirlo. Avevamo sempre il vento al nostro fianco, dalla parte di Meseglise, su quella pianura convessa dove per parecchie leghe non si incontra alcuna asperità del terreno. Sapevo che Mademoiselle Swann andava spesso a passare qualche giorno a Laon, e sebbene fosse a molte leghe, essendo la distanza compensata dall'assenza di qualunque ostacolo, quando nei caldi pomeriggi vedevo un unico soffio di vento giunto dall'estremo orizzonte piegare le messi più lontane, propagarsi come un'onda per tutta l'immensa distesa e venire a stendersi mormorante e tiepido ai miei piedi tra la lupinella e il trifoglio, quella pianura che era comune ad entrambi sembrava avvicinarci, unirci. Pensavo che quel soffio era passato accanto a lei, che fosse un messaggio di lei, quello che mi sussurrava senza che potessi comprenderlo, e lo baciavo al suo passaggio. A sinistra c'era un paese che si chiamava Champier, Campus Pagani, secondo il curato. Sulla destra, al di là delle messi, si scorgevano i due campanili cesellati e rustici di Saint-André-des-Champs, anch'essi affusolati, scrostati, embricati di alveoli, bulinati, biondeggianti e grumosi come due spighe. A intervalli simmetrici, nell'inimitabile ornato delle loro foglie, che non è possibile confondere con quelle di nessun altro albero da frutta, i meli aprivano i loro larghi petali di raso bianco o lasciavano pendere i timidi bouquet dei loro boccioli rosseggianti. È dalla parte di Meseglise che ho notato per la prima volta l'ombra rotonda che i meli proiettano sulla terra soleggiata e anche quelle sete d'oro impalpabile che il tramonto tesse obliquamente sotto le foglie e che io vedevo interrotte, senza mai essere deviate, dal bastone di mio padre. A volte, nel cielo del pomeriggio, passava la luna, bianca come una nuvola, furtiva, senza splendore, come un'attrice che non sia ancora di scena e che dalla platea si soffermi a guardare per un momento i compagni, cercando di non farsi notare affinché non si faccia caso a lei. Mi piaceva ritrovarne l'immagine nei quadri, nei libri, ma quelle erano opere d'arte molto diverse, almeno in quei primi anni, prima che Bloch abituasse i miei occhi e il mio pensiero a più sottili armonie, da quelle in cui la luna mi sembrerebbe bella oggi e in cui allora non l'avrei riconosciuta. Era per esempio qualche romanzo di Saint-In, un paesaggio di Glaire, in cui la luna ritaglia netta nel cielo un'esile falce d'argento. In quelle opere ingenuamente incomplete, come lo erano del resto le mie impressioni, e che le sorelle della nonna si indignavano di vedermi amare. Loro ritenevano che si dovessero presentare ai ragazzi e che questi dessero prova di buon gusto amandole fin dall'inizio, o perché, una volta giunti alla maturità, si ammirano in modo definitivo. Senza dubbio si immaginavano i pregi estetici come oggetti materiali che un occhio aperto non può fare a meno di percepire senza avere prima bisogno di maturarne lentamente degli equivalenti nel proprio cuore. Era dalla parte di Meseglise, a Montjouvain, in una casa situata sulla riva di un grande stagno e addossata a una scarpata ricoperta di cespugli che abitava Vanteille. E così incontravamo spesso per strada sua figlia alla guida di un calessino a briglia sciolta. Da un certo anno in poi non la incontrammo più sola, ma con un'amica di qualche anno più di lei, che in paese aveva una cattiva reputazione e che un giorno si installò definitivamente a Montjouvain. Dicevano: bisogna proprio che l'affetto lo renda cieco quel povero Vanteille, per non accorgersi di cosa si racconta e permettere alla figlia, lui che si scandalizza della minima parola fuori posto, di ospitare sotto il suo stesso tetto una donna simile. Dice che è una donna superiore, di gran cuore, e che avrebbe una straordinaria disposizione per la musica se solo la coltivasse. Può star certo che non di musica si occupa quella con sua figlia. Sì, Vanteille lo diceva, e in effetti è interessante notare quanta ammirazione per le sue qualità morali susciti sempre una persona nei parenti di un'altra che intrattenga con lei rapporti carnali. L'amore fisico, tanto ingiustamente denigrato, induce ogni essere a manifestare, sin nelle minime sfumature, tutta la bontà e la dedizione di sé di cui dispone, al punto che lo splendore di quelle qualità giunge agli occhi della loro cerchia immediata. Il dottor Percier, a cui la voce grossa e le folte sopracciglia permettevano di sostenere a suo piacimento il ruolo di uomo perfido, di cui però non aveva il fisico, senza compromettere affatto la sua incrollabile e immeritata reputazione di burbero benefico, sapeva far ridere fino alle lacrime il curato e tutti quanti, dicendo in tono rude: pare che Mademoiselle Vanteille faccia della musica con la sua amica. Perché vi stupite? Non capisco. Me l'ha detto proprio lui, papà Vanteille. Dopotutto, avrà pure il diritto di amare la musica, quella ragazza. Io non sono affatto dell'idea di contrastare le vocazioni artistiche dei giovani. Neanche Vanteille, a quanto pare. E poi ci fa anche lui della musica, con l'amica della figlia. Accidenti, se ne fa di musica da quelle parti. Ma cosa avete da ridere? Sì, ne fa un po' troppa di musica quella gente. L'altro giorno ho incontrato Vanteille padre vicino al cimitero. Non si reggeva in piedi. Per coloro che, come noi a quell'epoca, videro Vanteille evitare le persone che conosceva, voltarsi dall'altra parte quando le incontrava, invecchiare in pochi mesi, chiudersi nel suo dolore, diventare incapace di qualsiasi sforzo che non avesse per fine immediato la felicità della figlia, trascorrere intere giornate davanti alla tomba della moglie. Sarebbe stato difficile non comprendere che stava morendo di dolore e supporre che non si rendesse conto delle voci che giravano. Le conosceva, forse anche vi prestava fede. Non esiste forse persona, per quanto grande sia la sua virtù, che l'insieme delle circostanze non possa indurre a vivere un giorno in dimestichezza col vizio, che pure condanna nel modo più formale, senza peraltro riconoscerlo sotto il travestimento di fatti particolari con cui si camuffa per entrare in contatto con lei e farla soffrire. Parole bizzarre, atteggiamento inspiegabile. Una certa sera di quel tale essere che ha d'altronde tante ragioni per amare. Ma per un uomo come Vanteille, rassegnarsi a una di quelle situazioni che a torto si credono appannaggio esclusivo del mondo della bohème, doveva comportare una sofferenza ben maggiore che per altri. Simili situazioni si producono ogni volta che un vizio, che la natura stessa fa sbocciare in un bambino, a volte semplicemente mescolando le virtù del padre e della madre come il colore degli occhi, Ha bisogno di riservarsi lo spazio e la sicurezza che gli sono necessari. Ma il fatto che Van Tei conoscesse forse la condotta della figlia non significa che l'adorazione che aveva per lei ne venisse sminuita. I fatti non penetrano nel mondo in cui vivono le nostre credenze. Non le hanno generate né le possono distruggere. Possono infliggere loro costanti smentite senza indebolirle. È una valanga di sventure o di malattie che si succedono in una famiglia ininterrottamente non la farà dubitare della bontà del suo Dio o del talento del suo medico. Ma quando Van Tei pensava a sua figlia a se stesso, dal punto di vista del mondo, dal punto di vista della loro reputazione, quando cercava di situarsi con lei nella posizione che occupavano nella valutazione generale, allora quel giudizio di ordine sociale lo applicava su di sé esattamente come avrebbe fatto l'abitante di Combré, lui più ostile. Si vedeva cioè precipitato insieme alla figlia nell'ultimo dei bassi fondi. E da un po' di tempo i suoi modi ne avevano assunto quell'umiltà, quel rispetto verso coloro che si trovavano più in alto e che lui contemplava dal basso, fossero anche stati fino ad allora molto al di sotto di lui. Quella tendenza a cercare di risollevarsi sino a loro, che è una conseguenza quasi meccanica di tutte le cadute. Un giorno che camminavamo con Swan per una strada di Combré, Van Tei, sbucando da un'altra direzione, s'era trovato troppo bruscamente davanti a noi per fare in tempo ad evitarci, e Swan, con quell'orgogliosa carità dell'uomo di mondo che, nella dissoluzione di ogni pregiudizio morale, vede nel disonore di un altro soltanto un motivo per esercitare nei suoi confronti una benevolenza le cui manifestazioni lusingono tanto più l'amor proprio di chi le concede quanto più le sente preziose per chi le riceve, si era intrattenuto a lungo con Van Tei, al quale prima d'allora non aveva mai rivolto la parola, e gli aveva chiesto, prima di lasciarci, di mandare un giorno sua figlia a suonare a Tansonville. Quell'invito, che 2 anni prima avrebbe indignato Van Tei, ora lo riempiva di tale gratitudine da sentirsi in obbligo di non commettere l'indiscrezione di accettare. La cortesia di Swan verso sua figlia gli sembrava di per sé un sostegno così onorevole, così delizioso, da ritenere forse preferibile non valersene, per avere la dolcezza tutta platonica di conservarlo. «Che uomo squisito!» ci disse Van Tei quando Swan ci ebbe lasciati, con la stessa entusiastica venerazione e deferenza di graziose e intelligenti borghesi indotte al rispetto e soggiogate dal fascino di una duchessa, sia pure brutta e stupida. «Che uomo squisito! Peccato che abbia fatto un matrimonio così sconveniente!» «E allora...» A tal punto anche gli esseri più sinceri sono commisti di ipocrisia e si spogliano parlando con una persona dell'opinione che hanno di lei e che esprimeranno dopo che li avrà lasciati. I miei genitori deplorarono con Van Tei il matrimonio di Swan in nome di principi e convenienze contro le quali, per il fatto stesso di invocarli concordemente con lui da brave persone dello stesso stampo, avevano l'aria di sottintendere che a Montjouvain non era in corso alcuna trasgressione. Van Tei non mandò sua figlia da Swan, e questi fu il primo a rammaricarsene. Infatti, ogni volta, appena lasciato Van Tei, gli veniva in mente che da qualche tempo voleva chiedergli un'informazione su qualcuno che portava il suo stesso nome, un suo parente forse. E quella volta si era appunto ripromesso di non dimenticare quel che aveva da dirgli quando Van Tei avrebbe mandato sua figlia a Tansonville. Poiché la passeggiata dalla parte di Meseglise era la più breve delle due che facevamo nei dintorni di Combré, e per questo motivo la riservavamo alle giornate di tempo incerto, il clima dalla parte di Meseglise era piuttosto piovoso, e non perdevamo mai di vista il limitare dei boschi di Roussainville, nel cui folto avremmo potuto trovare riparo. Spesso il sole si nascondeva dietro una nuvola che ne deformava l'ovale e di cui a sua volta indorava i contorni. Il fulgore, ma non la luce, veniva sottratto alla campagna, dove ogni vita sembrava sospesa, mentre il piccolo villaggio di Roussainville scolpiva nel cielo il rilievo dei suoi contorni bianchi con una precisione e una finitezza opprimenti. Un refolo di vento faceva alzare in volo un corvo che planava in lontananza e, contro il cielo biancheggiante, il bosco in lontananza appariva più azzurro, come in quelle pitture monocrome che decorano i Trumeau nelle antiche dimore. Ma altre volte cominciava a cadere la pioggia, come ci aveva minacciato il frate cappuccino che l'ottico aveva in vetrina. Le gocce d'acqua, come uccelli migratori che insieme prendono il volo, cadevano in ranghi frettolosi giù dal cielo. Non si separano mai, non vanno all'avventura nella loro rapida traversata, ma ognuna, restando al suo posto, attira a sé quella che la segue, e il cielo ne è oscurato più che alla partenza delle rondini. Noi ci rifugiavamo nel bosco. Quando il loro viaggio sembrava finito, qualcuna più debole, più lenta, arrivava ancora. Ma noi uscivamo dal nostro riparo perché le gocce si divertono con le foglie e quando la terra era ormai quasi asciutta, più d'una si attardava a giocare sulle nervature di una foglia e sospesa alla sua punta, quieta, brillante nel sole, d'un tratto si faceva scivolare da tutta la lunghezza del ramo e ci cadeva sul naso. Spesso, anche, andavamo a ripararci, alla rinfusa coi santi e patriarchi di pietra, sotto il portico di Saint-André-des-Champs. Com'era francese quella chiesa, sul portale i santi, i re cavalieri, con in mano un giglio di Francia, le scene di nozze, i funerali, erano rappresentati come potevano esserlo nell'anima di Françoise. Lo scultore aveva anche narrato certi aneddoti su Aristotele e Virgilio, allo stesso modo in cui Françoise in cucina parlava volentieri di San Luigi, come se l'avesse conosciuto di persona, e in genere per far vergognare con quel confronto i miei nonni meno giusti. Si sentiva che le nozioni di storia antica o cristiana, di cui disponevano l'artista medievale e la contadina medievale, sopravvissuti sino al XIX secolo, nozioni che si distinguevano per uguale misura di inesattezza e di semplicità, le avevano tratte non dai libri, ma da una tradizione insieme antica e diretta, ininterrotta, orale, deformata, irriconoscibile e viva. Un altro personaggio di Combré che anche riconoscevo, virtuale e profetizzato nella scultura gotica di Saint-André-des-Champs, era il giovane Théodore, il garzone di bottega di Camus. Del resto, Françoise intuiva così bene in lui un compaesano e un contemporaneo che quando zia Léonie era troppo malata e lei non ce la faceva da sola a girarla nel letto, a metterla in poltrona, piuttosto che permettere alla sguattera di salire a mettersi in vista con la zia, chiamava Théodore. Ora, quel ragazzo, che passava e a ragione per un pessimo soggetto, era talmente pervaso dallo spirito che aveva decorato Saint-André-des-Champs, in particolar modo da quei sentimenti di rispetto che Françoise trovava dovuti ai poveri malati e alla sua povera padrona, che, nel sollevare la testa di mia zia sul cuscino, aveva l'espressione ingenua e zelante degli angioletti dei bassorilievi che con un cero in mano si affacendono intorno alla Vergine in deliquio, come se i volti di pietra scolpita, grigiastri e nudi come i boschi d'inverno, fossero soltanto assopiti, una riserva pronta a rifiorire alla vita in innumerevoli volti popolari, reverenti e astuti come quello di Théodore, accesi del rossore di una mela matura. Non più scolpita nella pietra come quegli angioletti, ma staccata dal portico, di statura più che umana, ritta su un basamento come su uno sgabello che le evitasse di posare i piedi sul suolo umido, una santa aveva le gote piene, il seno sodo, che gonfiava il drappeggio dell'abito come un grappolo maturo in un sacco di crine, la fronte stretta, il naso corto e sbarazzino, le pupille infossate, l'aria sana, insensibile e coraggiosa delle contadine del luogo. Quella somiglianza, che insinuava nella statua una dolcezza che non vi avevo cercato, era spesso confermata da qualche ragazza dei campi venuta come noi a mettersi al riparo e la cui presenza, simile a quella di certe foglie di parietaria spuntate accanto alle foglie scolpite, sembrava destinata a permettere, in un confronto con la natura, di giudicare la verità dell'opera d'arte. Davanti a noi, in lontananza, terra promessa o maledetta, Rue Saint-Ville, nelle cui mura non ero mai penetrato. Rue Saint-Ville, poco dopo, quando la pioggia per noi era già cessata, continuava ad essere castigata come un villaggio biblico, da tutte le lance del temporale che flagellavano obliquamente le dimore dei suoi abitanti. Oppure era già stata perdonata da Dio Padre, che faceva scendere su di lei, disuguali per lunghezza come i raggi di un ostensorio d'altare, gli steli d'oro sfrangiati del suo sole riapparso. A volte il tempo era irrimediabilmente brutto. Bisognava rientrare e starsene chiusi in casa. Qua e là, in lontananza, nella campagna che l'oscurità e l'umidità facevano assomigliare al mare, qualche casa isolata, aggrappata al fianco di una collina, immersa nella notte e nell'acqua, brillava come un piccolo battello che abbia ripiegato le vele e se ne stia immobile al largo tutta la notte. Ma che importava la pioggia? Che importava il temporale? D'estate il cattivo tempo non è che un umore passeggero, superficiale, del bel tempo sottostante e stabile, ben diverso dal bel tempo instabile e fluido dell'inverno, e che, al contrario, installato sulla terra, dove si è solidificato in densi fogliami su cui la pioggia può sgocciolare senza compromettere la resistenza della loro gioia perenne, ha issato per tutta la stagione, fin nelle strade del villaggio, sui muri delle case e dei giardini, i suoi vessilli di seta violetta o bianca. Seduto nel salottino, dove attendevo l'ora di cena leggendo, sentivo l'acqua gocciolare dagli ippocastani, ma sapevo che l'acquazzone non faceva che smaltarne le foglie e che queste promettevano di restare là per tutta la notte piovosa come pegno dell'estate, ad assicurare la continuità del bel tempo. Poteva piovere quanto voleva, ma domani, al di sopra della bianca staccionata di Tansonville, avrebbero dondolato, numerose come sempre, le piccole foglie a forma di cuore. Ed era senza tristezza che vedevo il pioppo di Rue de Perchamps rivolgere al temporale suppliche e saluti disperati. Era senza tristezza che sentivo in fondo al giardino gli ultimi brontolii dei tuoni tubare fra i lillà. Se il tempo era brutto fin dal mattino, i miei rinunciavano alla passeggiata e io non uscivo. Ma più tardi presi l'abitudine in quei giorni di andare a passeggiare da solo dalla parte di Meseglise Lavinese, nell'autunno che dovemmo recarci a Combray per la successione di zia Leonie, che alla fine era morta, decretando il trionfo sia di coloro che sostenevano che il suo regime debilitante avrebbe finito per ucciderla, sia di quelli che avevano da sempre sostenuto che soffrisse di una malattia non immaginaria, ma organica, alla cui evidenza gli scettici sarebbero stati finalmente obbligati ad arrendersi quando ne fosse stata sopraffatta, e provocando con la sua morte un grande dolore a un solo essere, ma a quello davvero feroce. Negli ultimi 15 giorni che durò l'ultima malattia della zia, Françoise non l'abbandonò un solo istante, non si spogliò mai, non permise a nessun altro di occuparsi di lei e non lasciò il suo corpo se non quando fu sotterrato. Allora comprendemmo che quella sorta di timore in cui Françoise era vissuta, delle cattive parole, dei sospetti, delle collere di mia zia, aveva sviluppato in lei un sentimento che noi avevamo scambiato per odio, ma era invece venerazione e amore. La sua vera padrona, dalle decisioni impossibili a prevedersi, dalle astuzie difficili da sventare, dal buon cuore facile a piegare, la sua sovrana, il suo misterioso e onnipotente monarca, non c'era più. Al suo confronto noi contavamo ben poco. Era lontano il tempo in cui, quando avevamo cominciato a venire a Combray per le vacanze, agli occhi di Françoise, noi avevamo un prestigio pari a quello della zia. Quell'autunno, tutti presi dal disbrigo delle formalità, dai colloqui con i notai e con i fattori, senza mai un momento libero per uscire, cosa che del resto il tempo non favoriva, i miei presero l'abitudine di lasciarmi andare a passeggiare senza di loro dalla parte di Meseglise, avvolto in un grande plaid che mi proteggeva dalla pioggia e che io mi gettavo tanto più volentieri sulle spalle quanto più avvertivo che le sue righe scozzesi scandalizzavano Françoise, a cui non riuscivo a far entrare in testa l'idea che il colore degli abiti non ha niente a che vedere con il lutto, e alla quale peraltro il nostro dolore per la morte della zia piaceva poco, perché non avevamo dato il gran banchetto funebre, non assumevamo un tono di voce speciale per parlare di lei, e addirittura a volte io canticchiavo. Sono certo che in un libro, e in questo ero anch'io come Françoise, questa concezione del lutto derivata dalla chanson de Roland e dal portale di Saint-André-des-Champs mi sarebbe stata simpatica, ma appena Françoise mi era vicina, un demone mi spingeva a desiderare di farla imbestialire, e coglievo ogni pretesto per dirle che rimpiangevo mia zia perché era una buona donna, malgrado le sue ridicolaggini, ma assolutamente non perché era mia zia, che avrebbe potuto essere mia zia e risultarmi odiosa e la sua morte lasciarmi indifferente. Discorsi che in un libro mi sarebbero sembrati stupidi. Se allora Françoise, soverchiata come un poeta da un'onda di pensieri confusi sul dolore, sui ricordi di famiglia, si scusava di non saper rispondere alle mie teorie e diceva «Io non so esprimermi», io trionfavo di quella confessione con un buon senso ironico e brutale degno del dottor Percepied. E se lei aggiungeva «Era pur sempre parte della parentela», resta sempre il rispetto che si deve alla parentela. Io alzavo le spalle e mi dicevo, sono proprio stupido a mettermi a discutere con una illetterata che dice simili strafalcioni, adottando così, per giudicare Françoise, il punto di vista meschino di certi uomini di cui gli stessi che più li disprezzano, nell'imparzialità della riflessione, sono capacissimi di assumere la parte quando recitano una delle scene volgari della vita.